ad alta voce. Maddalena Crippa legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Nell'assenza del governatore Don Gonzalo Fernandez de Cordova, che comandava l'assedio di Casale del Monferrato, faceva le sue veci in Milano il gran cancelliere Antonio Ferrer, pure spagnolo. Costui vide, e chi non l'avrebbe veduto, che l'essere il pane a un prezzo giusto è per sé una cosa molto desiderabile, e pensò, e qui fu lo sbaglio, che un suo ordine potesse bastare a produrla. Fissò la meta, così chiamano qui la tariffa in materia di commestibili, fissò la meta del pane al prezzo che sarebbe stato il giusto se il grano si fosse comunemente venduto 33 lire il moggio, e si vendeva fino a 80. Fece come una donna stata giovine che pensasse di ringiovanire alterando la sua fede di battesimo. Ordini meno insensati e meno iniqui erano, più di una volta, per la resistenza delle cose stesse, rimasti ineseguiti. Ma all'esecuzione di questo vegliava la moltitudine, che vedendo finalmente convertito in legge il suo desiderio, non avrebbe sofferto che fosse per celia. Accorse subito ai forni a chieder pane al prezzo tassato e lo chiese con quel fare di risolutezza e di minaccia che danno la passione, la forza e la legge riunite insieme. Se i fornai strillassero, non lo domandate. Intridere, dimenare, infornare e sfornare senza posa, perché il popolo, sentendo in confuso che l'era una cosa violenta, assediava i forni di continuo per goder quella cuccagna finché durava. Affacchinarsi, dico, e scalmanarsi più del solito per iscapitarci, ognun vede che bel piacere dovesse essere. Però a farli continuare in quell'impresa non bastava che fosser lor comandato, né che avessero molta paura. Bisognava potere, e un po' più che la cosa fosse durata non avrebbero più potuto. Facevan vedere ai magistrati l'iniquità e l'insopportabilità del carico imposto loro, protestavano di voler gettar la pala nel forno e andarsene, e intanto tiravano avanti come potevano, sperando che una volta o l'altra il gran cancelliere avrebbe inteso la ragione. Ma Antonio Ferrer, il quale era quel che ora si direbbe un uomo di carattere, rispondeva che i fornai si erano avvantaggiati molto e poi molto nel passato, e si avvantaggerebbero molto e poi molto col ritornar dell'abbondanza, che anche si vedrebbe, si penserebbe forse a dar loro qualche risarcimento, e che intanto tirassero ancora avanti. O fosse veramente persuaso lui di queste ragioni che allegava agli altri, o che, anche conoscendo dagli effetti l'impossibilità di mantenere quel suo editto, volesse lasciare agli altri l'odiosità di rivocarlo, giacché chi può ora entrare nel cervello di Antonio Ferrer? Il fatto sta che rimase fermo su ciò che aveva stabilito. Finalmente i decurioni, un magistrato municipale composto di nobili che durò fino al 96 del secolo scorso, informarono per lettera il governatore dello stato in cui erano le cose, trovasse lui qualche ripiego che le facesse andare. Don Gonzalo, ingolfato fin sopra i capelli nelle faccende della guerra, fece ciò che il lettore si immagina certamente. Nominò una giunta, alla quale conferì l'autorità di stabilire al pane un prezzo che potesse correre, una cosa da poterci campar tanto una parte che l'altra. I deputati si radunarono, o come qui si diceva spagnolescamente nel gergo segretariesco d'allora, si giuntarono, e dopo mille riverenze, complimenti, preamboli, sospiri, sospensioni, proposizioni in aria, tergiversazioni, strascinati tutti verso una deliberazione da una necessità sentita da tutti, sapendo bene che giocavano una gran carta, ma convinti che non c'era da far altro, conclusero di rincarare il pane. I fornai respirarono, ma il popolo si imbestialì. La sera avanti questo giorno in cui Renzo arrivò in Milano, Le strade e le piazze brulicavano d'uomini che, trasportati da una rabbia comune, predominati da un pensiero comune, conoscenti o estranei, si riunivano in crocchi, senza essersi dati l'intesa, quasi senza vedersene, come gocciole sparse sullo stesso pendio. Ogni discorso accresceva la persuasione, la passione degli uditori, come di colui che l'aveva proferito. Tra tanti appassionati c'erano pure alcuni più di sangue freddo, i quali stavano osservando con molto piacere che l'acqua s'andava intorbidando e si ingegnavano di intorbidarla di più con quei ragionamenti e con quelle storie che i furbi sanno comporre e che gli animi alterati sanno credere, e si proponevano di non lasciarla posare quell'acqua senza farci un po' di pesca. Ma migliaia d'uomini andarono a letto col sentimento indeterminato che qualche cosa bisognava fare, che qualche cosa si farebbe. Avantigiorno le strade erano di nuovo sparse di crocchi. Fanciulli, donne, uomini, vecchi, operai, poveri, si radunavano a sorte. Qui era un bisbiglio confuso di molte voci. La uno predicava e gli altri applaudivano. Questo faceva al più vicino la stessa domanda che era allora stata fatta a lui. Quest'altro ripeteva l'esclamazione che si era sentita risuonare agli orecchi. Per tutto lamenti, minacce, maraviglie. Un piccolo numero di vocaboli era il materiale di tanti discorsi. Ma non mancava altro che un'occasione, una spinta, un avviamento qualunque per ridurre le parole a fatti, e non tardò molto. Uscivano sul far del giorno dalle botteghe dei fornai i garzoni che con una gerla carica di pane andavano a portarne alle solite case. Il primo comparire d'uno di quei malcapitati ragazzi dov'era un crocchio di gente fu come il cadere d'un salterello acceso in una polveriera. «Ecco se c'è il pane!» gridarono 100 voci insieme. «Sì, per i tiranni che notano nell'abbondanza e vogliono far morir noi di fame!» dice uno. S'accosta il ragazzetto, avventa la mano all'orlo della gerla, dà una stratta e dice «Lascia vedere!» Il ragazzetto diventa rosso, pallido, trema, vorrebbe dire «lasciatemi andare», ma la parola gli muore in bocca, allenta le braccia e cerca di liberarle in fretta dalle cigne. «Giù quella gerla!» si grida intanto. Molte mani l'afferrano a un tempo, è in terra, si butta per aria il canovaccio che la copre. Una tiepida fragranza si diffonde all'intorno. «Siamo cristiani anche noi, dobbiamo mangiare pane anche noi», dice il primo. Prende un pan tondo, l'alza facendolo vedere alla folla, l'addenta, mani alla gerla, pani per aria, in men che non si dice fu sparecchiato. Coloro a cui non era toccato nulla, irritati alla vista del guadagno altrui e animati dalla facilità dell'impresa, si mossero a branchi in cerca d'altre gerle, quante incontrate, tante svaligiate. E non c'era neppur bisogno di dar l'assalto ai portatori. Quelli che per loro disgrazia si trovavano in giro vista la malaparata posavano volontariamente il carico e via, a gambe. Con tutto ciò, coloro che rimanevano a denti secchi erano senza paragoni i più. Anche i conquistatori non erano soddisfatti di prede così piccole e mescolati poi gli uni e con gli altri c'erano coloro che avevano fatto disegno sopra un disordine più coi fiocchi. «Al forno! Al forno!» Nella strada chiamata la Corsia dei Servi c'era e c'è tuttavia un forno che conserva lo stesso nome. Nome che in toscano viene a dire il forno delle grucce e in milanese è composto di parole così eteroclite, così bisbetiche, così salvatiche che l'alfabeto della lingua non ha i segni per indicarne il suono. A quella parte s'avventò la gente. Quelli della bottega stavano interrogando il garzone tornato scarico, il quale, tutto sbigottito e abbarruffato, riferiva balbettando la sua trista avventura. Quando si sente un calpestio e un urlio insieme, cresce e s'avvicina, compariscono i forieri della masnada. «Serra, serra, presto, presto!» Uno corre a chiedere aiuto al capitano di giustizia. Gli altri chiudono in fretta la bottega e appuntellano i battenti. La gente comincia ad affollarsi di fuori e a gridare «Pane, pane, aprite, aprite!» Pochi momenti dopo arriva il capitano di giustizia con una scorta dalla Barbieri. «Largo, largo, figliuoli! A casa, fate luogo al capitano di giustizia!» grida lui e gli alabardieri. La gente, che non era ancora troppo fitta, fa un po' di luogo, di modo che quelli poterono arrivare e postarsi insieme, se non in ordine, davanti alla porta della bottega. «Ma figliuoli!» predicava di lì il capitano. «Che fate qui? A casa! A casa! Dov'è il timor di Dio? Che dirà il re nostro signore? Non vogliamo farvi male, ma andate a casa da bravi! Che diamine volete far qui così ammontati? Niente di bene, né per l'anima né per il corpo. A casa, a casa!» Ma quelli che vedevano la faccia del dicitore e sentivano le sue parole, quando anche avessero voluto ubbidire, dite un poco in che maniera avrebbero potuto, spinti come erano e incalzati da quelli di dietro, spinti anch'essi da altri come flutti da flutti, via via, fino all'estremità della folla che andava sempre crescendo. Al capitano cominciava a mancargli il respiro. «Fateli dare addietro, ch'io possa riprendere fiato», diceva agli alabardieri. «Ma non fate male a nessuno, vediamo d'entrare in bottega, picchiate, fateli stare indietro, indietro, indietro», gridano gli alabardieri, buttandosi tutti insieme addosso ai primi e respingendoli con l'aste delle alabarde. Quelli urlano, si tirano indietro come possono, danno con le schiene nei petti, coi gomiti nelle pance, coi calcagni sulle punte dei piedi a quelli che sono dietro a loro. Si fa un pigio, una calca, che quelli che si trovavano in mezzo avrebbero pagato qualcosa a essere altrove. Intanto un po' di voto s'è fatto davanti alla porta. Il capitano picchia, ripicchia, urla che gli aprano. Quelli di dentro vedono dalle finestre, scendono di corsa, aprono. Il capitano entra, chiama gli alabardieri che si ficcano dentro anch'essi l'un dopo l'altro, gli ultimi rattenendo la folla con l'alabarde. Quando sono entrati tutti, si mette tanto di catenaccio, si riappuntella. Il capitano sale di corsa e s'affaccia a una finestra. Che formicolaio! Figliuoli! Grida. Molti si voltano in su. Figliuoli, andate a casa! Perdono generale a chi torna subito a casa! Pane, pane, aprite, aprite! Erano le parole più distinte nell'urlio orrendo che la folla mandava in risposta. Giudizio, figliuoli! Badate bene, siete ancora a tempo! Via! Andate, tornate a casa, pane ne avrete, ma non è questa la maniera. Che fate laggiù? A quella porta, oibò, vedo, giudizio. Badate bene, è un delitto grosso. Orora vengo io, smettete con quei ferri, giù quelle mani, vergogna. Voi altri milanesi, che per la bontà siete nominati in tutto il mondo, sentite, siete sempre stati buoni, canaglia! Questa rapida mutazione di stile fu cagionata da una pietra che, uscita dalle mani d'uno di quei buoni figliuoli, venne a batter nella fronte del capitano, sulla protuberanza sinistra della profondità metafisica. «Canaglia, canaglia!» continuava a gridare, chiudendo presto presto la finestra e ritirandosi. Ma quantunque avesse gridato, quanto non aveva in canna, le sue parole buone e cattive s'eran tutte dileguate e disfatte a mezz'aria nella tempesta delle grida che venivano di giù. Quello poi che diceva di vedere era un gran lavorare di pietre, di ferri, che si faceva alla porta per sfondarla e alle finestre per svellere le inferriate. E già l'opera era molto avanzata. Intanto padroni e garzoni della bottega, che erano alle finestre dei piani di sopra, con una munizione di pietre, avranno probabilmente disselciato un cortile, urlavano e facevano versacci a quelli di giù perché smettessero. Facevano vedere le pietre, accennavano di volerle buttare. Visto che era tempo perso, cominciarono a buttarle davvero. Neppur una ne cadeva in fallo, giacché la calca era tale che un granello di miglio, come si suol dire, non sarebbe andato in terra. «Ah, birboni! Ah, furfantoni! È questo il pane che date alla povera gente? Ai! Ahimè! Oi! Oi! Ora! Ora!» s'urlava di giù. Più d'uno fu conciato male. Due ragazzi vi rimasero morti. Il furore accrebbe le forze della moltitudine. La porta fu sfondata, le inferriate svelte e il torrente penetrò per tutti i varchi. Quelli di dentro, vedendo la mala parata, scapparono in soffitta. Il capitano, gli alabardieri e alcuni della casa stettero lì rannicchiati nei cantucci. Altri, uscendo per gli abbaini, andavano su per i tetti come i gatti. La vista della preda fece dimenticare ai vincitori i disegni di vendette sanguinose. Si slanciarono ai cassoni. Il pane è messo a ruba. Qualcheduno invece corre al banco, butta giù la serratura, agguanta le ciotole, piglia manate in tasca ed esce carico di quattrini per tornare poi a rubar pane, se ne rimarrà. La folla si sparge nei magazzini, mette mano ai sacchi, li strascicano, li rovesciano. Chi se ne caccia uno tra le gambe, gli scioglie la bocca e per ridurlo a un carico da potersi portare butta via una parte della farina. Chi gridando «aspetta, aspetta!» si china a parare il grembiule, un fazzoletto, il cappello per ricevere quella grazia di Dio. Uno corre a una madia e prende un pezzo di pasta che s'allunga e gli scappa da ogni parte. Un altro che ha conquistato un burattello lo porta per aria. Chi va? Chi viene? Uomini, donne, fanciulli, spinte, rispinte, urli. È un bianco polverio che per tutto si posa, per tutto si solleva e tutto vela e annebbia. Di fuori una calca composta di due processioni opposte che si rompono e si intralciano a vicenda, di chi esce con la preda e di chi vuole entrare a farne. A questo punto erano le cose quando Renzo, avendo ormai sgranocchiato il suo pane, veniva avanti per il borgo di Porta Orientale e s'avviava, senza saperlo, proprio al luogo centrale del tumulto. Andava, ora lesto, ora ritardato dalla folla, e andando guardava e stava in orecchi per ricavare da quel ronzio confuso di discorsi qualche notizia più positiva dello stato delle cose. Ed ecco, a un di presso, le parole che gli riuscì di rilevare in tutta la strada che fece. «Ora è scoperta!» gridava uno. «L'impostura infame di quei birboni che dicevano che non c'era né pane né farina né grano! Ora si vede la cosa chiara e lampante! E non ce la potranno più dare ad intendere! Viva l'abbondanza!» «Vi dico io che tutto questo non serve a nulla!» diceva un altro. È un buco nell'acqua, anzi sarà peggio se non si fa una buona giustizia. Il pane verrà a buon mercato, ma ci metteranno il veleno per far morire la povera gente come mosche. Già lo dicono che siamo troppi, l'hanno detto nella giunta e lo so di certo per averlo sentito di Rio con questi orecchi da una mia comare che è amica d'un parente, d'uno sguattero, d'uno di quei signori. Parole da non ripetersi diceva con la schiuma alla bocca un altro, che teneva con una mano un cencio di fazzoletto su capelli arruffati e insanguinati, e qualche vicino, come per consolarlo, gli faceva eco. «Largo, largo, signori, in cortesia! Lasci impassare un povero padre di famiglia che porta da mangiare a cinque figliuoli!» Così diceva uno che veniva barcollando sotto un gran sacco di farina e ognuno si ingegnava di ritirarsi per fargli largo. «Io?» diceva un altro quasi sottovoce a un suo compagno. «Io me la batto. Sono uomo di mondo e so come vanno queste cose. Questi merlotti che fanno ora tanto fracasso, domani o doman l'altro se ne staranno in casa, tutti pieni di paura. Ho già visto certi visi, certi galantuomini che giran facendo l'indiano e notano chi c'è e chi non c'è. Quando poi tutto è finito, si raccolgono i conti e a chi tocca, tocca. «Quello che protegge i fornai!» gridava una voce sonora che attirò l'attenzione di Renzo. «È il vicario di provvisione! Sono tutti birboni!» diceva un vicino. «Sì, ma il capo è lui!» replicava il primo. Tra questi discorsi, dai quali non saprei dire se fosse più informato o sbalordito, e tra gli urtoni arrivò Renzo finalmente davanti a quel forno. La gente era già molto diradata, di modo che poté contemplare il brutto e recente sobquadro. Le mura scalcinate e ammaccate da sassi, da mattoni, le finestre sgangherate, diroccata la porta. «Questa poi non è una bella cosa», disse Renzo tra sé. «Se concian così tutti i forni, dove vogliono fare il pane? Nei pozzi?» Ogni tanto usciva dalla bottega qualcheduno che portava un pezzo di cassone o di madia o di frullone, non so, la stanga d'una gramola, una panca, una paniera, un libro di conti, qualche cosa insomma di quel povero forno, e gridando «largo, largo!» passava tra la gente. Tutti questi si incamminavano dalla stessa parte e a un luogo convenuto si vedeva. «Cos'è quest'altra storia?» pensò di nuovo Renzo e andò dietro a uno che, fatto un fascio d'asse spezzate di schegge, se lo mise in spalla, avviandosi come gli altri per la strada che costeggia il fianco settentrionale del Duomo e ha preso nome dagli scalini che c'erano e da poco in qua non ci sono più. La voglia d'osservare gli avvenimenti non poté fare che il montanaro, quando gli si scoprì davanti la gran mole, non si soffermasse a guardare in su con la bocca aperta. Studiò poi il passo per raggiungere colui che aveva preso come per guida. Voltò il canto, diede un'occhiata anche alla facciata del Duomo, rustica allora in gran parte e ben lontana dal compimento, e sempre dietro a colui che andava verso il mezzo della piazza. La gente era più fitta quanto più si andava avanti, ma al portatore gli si faceva largo. Egli fendeva l'onda del popolo e Renzo, standogli sempre attaccato, arrivò con lui al centro della folla. Lì c'era uno spazio vuoto e in mezzo un mucchio di braccia, reliquie degli attrezzi detti di sopra. All'intorno era un batter di mani e di piedi, un frastuono di mille grida, di trionfo, di imprecazione. L'uomo del fascio lo buttò su quel mucchio. Un altro, con un mozzicone di pala mezzo abbruciacchiato, sbracia il fuoco. Il fumo cresce e s'addensa, la fiamma si ridesta, con essa le grida sorgon più forti. «Viva l'abbondanza! Muoiano gli affamatori! Muoia la carestia! Crepi la provvisione! Crepi la giunta! Viva il pane!» Veramente la distruzione dei frulloni e delle madie, la devastazione dei forni e lo scompiglio dei fornai non sono i mezzi più spicci per far vivere il pane, ma questa è una di quelle sottigliezze metafisiche che una moltitudine non ci arriva. Però, senza essere un gran metafisico, un uomo ci arriva talvolta alla prima, finché nuovo della questione e solo a forza di parlarne e di sentirne parlare diventerà inabile anche ad intenderle. A Renzo, infatti, quel pensiero gli era venuto, come abbiamo visto, da principio e gli tornava ogni momento. Lo tenne peraltro in sé, perché di tanti visi non ce n'era uno che sembrasse dire: «Fratello, se fallo, correggimi che l'avrò caro». Già era di nuovo finita la fiamma, non si vedeva più venir nessuno con altra materia e la gente cominciava ad annoiarsi, quando si sparse la voce che al Cordusio, una piazzetta o un crocicchio non molto distante di lì, si era messo l'assedio a un forno. Spesso, in simili circostanze, l'annunzio di una cosa la fa essere. Insieme con quella voce si diffuse nella moltitudine una voglia di correr là. «Io vo, tu vai, vengo, andiamo!» si sentiva per tutto. La calca si rompe e diventa una processione. Renzo rimaneva indietro, non muovendosi quasi, se non quanto era strascinato dal torrente, e teneva intanto consiglio in cuor suo se dovesse uscire dal baccano e ritornare al convento in cerca del padre Bonaventura o andare a vedere anche quest'altra. Prevalse di nuovo la curiosità, però risolvette di non cacciarsi nel fitto della mischia a farsi ammaccar l'ossa o a risicar qualcosa di peggio, ma di tenersi in qualche distanza a osservare. E trovandosi già un poco al largo, si levò di tasca il secondo pane e, attaccandoci un morso, s'avviò alla coda dell'esercito tumultuoso. Maddalena Crippa ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.